I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Non sono solo i conti del Banco Popolare ad aver affossato ieri il titolo e trascinato con sé anche la sposa futura, ossia la Popolare di Milano, e tutte, o la maggior parte, delle banche italiane quotate in borsa. I conti infatti hanno visto una perdita nel primo trimestre di 314 milioni di euro, a sorpresa, visto che ci si attendeva un utile a 41 milioni di euro. Ma il ragionamento che fa il mercato è leggermente diverso. Il Banco Popolare, proprio in vista del matrimonio con la Popolare di Milano, ha ricevuto la richiesta da parte della Banca Centrale Europea di mettere più soldi in cascina, si chiamano accantonamenti, per far fronte ai crediti che non dovessero essere più esigibili, le cosiddette sofferenze. Praticamente gli accantonamenti del Banco Popolare, su richiesta della Banca Centrale Europea, sono triplicati a 684 milioni di euro. E allora il ragionamento che fa il mercato è il seguente: se questa è la richiesta arrivata al Banco Popolare della Banca Centrale Europea per permettere le nozze con la Popolare di Milano, arriverà una simile richiesta anche alle altre banche che sono in procinto di fondersi o sposarsi tra di loro? E se sì, questo vorrà dire un ulteriore sborso di capitale, maggiori accantonamenti, vuol dire infatti ridurre il patrimonio di una banca con il rischio di dover ricorrere nuovamente agli aumenti di capitale. Insomma, i matrimoni li stiamo attendendo da almeno un anno nel mondo delle popolari. Quello che forse era stato sottovalutato è l'ammontare della dote che la sposa dovrà portare. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Bond a tassi zero giù di lì, azioni e borse sull'ottovolante, titoli di Stato con rendimento negativo che tagliano l'utile di fondi pensioni e assicurazioni. Pensate che c'è addirittura chi ha conferito al fondo pensione aziendale 500 milioni di euro in botti di whisky invecchiato perché rendono più del Bund tedesco. E poi, come se non bastasse, ecco tornare d'attualità la crisi della Grecia, il tormentone infinito che da 5 anni tiene i mercati con il fiato sospeso. Chi si chiede quando finirà la corsa al rialzo dei prezzi dell'oro può avere una buona risposta da questo breve riassunto delle grandi incognite che gravano sui mercati. Con ogni buona probabilità, e vista soprattutto la litigiosità altissima tra i paesi dell'Eurozona, il prezzo dell'oro continuerà a salire ancora a lungo. Del resto, basta guardare i primi dati sul trimestre. La domanda di oro è salita in 3 mesi del 21%, il balzo più elevato dopo quello della drammatica estate del 2011, quando i mercati sembravano sull'orlo dell'abisso. I prezzi sono cresciuti invece del 16%, il livello più alto degli ultimi 30 anni. A comprare non sono solo i piccoli risparmiatori spaventati dalle borse, ma i grandi investitori dei fondi, che in meno di 2 mesi hanno addirittura raddoppiato gli acquisti di lingotti d'oro. Il balzo dell'oro è ancora più significativo se si pensa che i grandi compratori tradizionali, India, paesi asiatici e banche centrali, non hanno avuto il ruolo guida nella corsa del metallo giallo quest'anno. D'altra parte, con i bond bancari usciti di scena e quelli aziendali che hanno ormai scadenze fino a 100 anni, per trovare qualche rendimento in più si deve cercare sottoterra. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.